Oi, Lilo, botta giù la pasta, che pronta. Ora, attenzione, binario 10, cambio. Binario 10, cambio. Attenzione binario 10, cambio. Hola, attenzione 10, cambio. Attenzione binario 10, cambio. Attenzione 10, cambio. Oi, Lillo, butta giù la pasta che è pronta. Che è avanti, avanti. Avanti. Ora, attenzione, binario 10, cambio. Giugatevi. Ora, prova radio. Prova. Attenzione, binario 10, cambio. Bene, chi sei? Cava, dove sei? A Osilo. Cappa, Cristian. No, io sto andando a fare una visita, vabbè, ci vuole ancora una ventina di minuti. Ci stavo aspettando, là, se c'era qualcuno. Come mai sei in quella zona? Capito. Vabbè. Quando scendi, Cristian, io sono qua dove c'è Motor Marini, e quindi come ti sto arrivando in quella zona? Cambio. Ciao, Claudio. Ciao a tutti e due, divertitevi. Ciao. Avanti Cristian. Guarda, sono già dentro il Sassari, guarda. Stavi splatterando a Claudio. Vabbè, non sono da casa tua, comunque è probabile. No, non penso che lo splatteri, dai, ha fatto la battuta. Ho visto questo segnale, ho detto che c'è al cancello, e oggi inteso a te. Gara. Tra poco devo fare una visita. Una ventina di minuti. Cristian, dove ci arriva? Aspetta. Io sei vicino a me. 5 watt. E non ce n'è nemmeno a New York. Sì, c'è come la radio, forte. Sempre forte la radio, perfetta. Cavagava, e dove sei adesso? Sto vicino alla piscina che ho baleno. Cavagava. E io sono, guarda, io non dico che parcheggi vicino a Marino. Già va bene a voi, si arriva allora, va. Già va bene l'antenna. Sì, sì. Che antenna sei usata? L'antenna LEM sul Bargessidio. Ma LEM quale? LEM ce ne sono tante, Turbo 2001, qual è? No, quella piccola da un metro e mezzo, quella fine. Ho capito. E poi ce n'è una della LEM, lo stesso, che è molto buona, è quella che ha la base verde. Quella lì la pieghi in due, non si tronca, si gira tutta ma non si tronca. Ma questo già va bene come antenna, mi senti lì, va benissimo, non ho problemi, guarda. Ti senti. Sei vicino, per forza ti senti. Vabbè, adesso mi sposto, che devo andare. Ciao Cristian, ciao a tutti gli altri amici che sono all'ascolto. Non entra uno, vabbè, ciao. Ciao, buon divertimento. Attenzione 10, c'è qualcuno, cambia. Cosa vuoi, Giamba? Buonasera. Oh, e metto. Sì, qua sono. E io invece mi ero al Conti a fare una lastra. Stasera? Gianni? Sì, adesso alle 7:15 non l'hanno fatto. Ti adatte? Andiamo bene. Adesso stanno a prendere anche di sera. Oh, ma in macchina sì. Scappa. Ma in macchina sei già. Ehi, un attimino che chiudo lo sportello e l'ho chiuso male. Attenzione, pesce squalo, dove sei? Non lo sai dove sono. Sono al QTH a casa. Come ti arrivo lì? Ci deve essere qualcuno che ti metta la portante. Ovvero. E io. E la saluta. Quando gli si secca il dito poi non lo fa più. Non passi, Perché è vicino, ho capito chi è. Che buoni, è importante, di buoni. Mi faccio dentro la favida. Cioè, deve essere che si vergogna quello. Quando non sanno cosa fare fanno queste cose. Un po' di forti. Me lo puoi dire forte. Cado lì si incaccare già l'udito, non lo fa di più. Ma non lo saccio. Non lo saccio. E io sono vicino al Conti adesso, capito? Ma stai andando via dal Conti? Sì, sto andando via. Mi adesso ho preso la macchina. Non ce n'è portante lì, passi tranquillamente. Cavagara. Hai capito Gianni? No, negativo, cla. Ho detto che qua non ce n'è portante, passi tranquillamente. Allora è giù, da qualche parte sarà. Sarà giù dalle parti Vittore, qua passi tranquillamente, 9:20, senza problemi. Cavagata, vabbè. Tori! Io, chi è che mi sta chiamando? Io sono. Ma ho sentito la voce di un altro, però non sono riuscito a capirlo. Non capire, ciao. Ah, ma è da vedere tanto che ti sento dopo di tanto, ca. Buonasera comunque. Ma dottore, è 3-4 anni che io non uso più la 27, comunque ogni tanto già entro a salutare. Ciao Bo, ciao anche a Gianni, che sto passando ai fornelli, ciao. Ciao. Claudio. Sentiamo. Va bene, avanti, dottore. Ciao qua! Stai ai fornelli, stai! Ok! Ci risentiamo alle prossime! Cosa c'è già? niente. Io sto scendendo verso casa. Adesso piccolo arrivo, portami giù a te, perché è già tardi. Andavi. Sì, ti conviene portare il cane. Sì, quando arrivo a casa, Adesso mi arrivi. Sì, fa così, vai piano, che va piano va lontano. Adesso ho il microfono. È forte e chiaro. Se c'è qualche blocco non io invece se ho da usarlo in macchina mi porto il microfono di quello che si tiene nel dito si tiene e fa vedi. No, io ho il microfono normale l'apparecchio, però già va bene. La radio è bella. Ma io ho quello lì, saggio di idratarlo, se no non è buono. Come ne ha fatto un donato, non fai mai nessuno di mangiare. Lo so. Poi d'estate magari necessita. Qualche turista, qualche uno, sì. D'estate sì. Vabbè, prima si diceva d'inverno, perché d'inverno tutti stavano a casa, d'estate invece esco. Sì, sono stato esco, ma non era fortunata dell'apparato. Infatti, se ci sono spettacoli, anche io esco, la verità. La maggior parte delle volte vado a Porto Torres, perché lì organizzo diverse cose. Ci sono complessi, un po' di tutto. Aspettati l'estate allora. Ti divertirai un po'. Non aspettate l'estate, sarà attacca la corrida la sabato. Ma fuori la fanno, sì? Fuori, no. Al teatro comunale, a Sassari. Ah già, che quello era il teatro comunale a Sassari. Ma io stavo dicendo a Porto Torres. Sì, a Porto Torres è l'aperto delle piazze del fai. Ah, ci vengono diversi complici famosi, anche cantanti. È venuta anche per la Spagna. Avevo sentito di quella. E purtroppo ormai con chi sta continuando il tuo coso così? Arrivederci. No, ancora no. C'è il traffico tu. Chi è che vuole entrare? No, da là va, non vuole entrare nessuno. Si deve imparare a cibare. Agli ascoltori? Allora. Andiamo, bobo. Andiamo bene di baracca. Infatti è così. A berretti? Cabagaba. Sempre bene, mi ascolti pure. Sì, sempre bene, Radio 5 perfetta. Va bene, sono già arrivato qui da casa. Fra poco devo aprire il cancello. Ma a mano apri il cancello. Cosa? Se lo apri a mano. No, un telecomando. Ah bene, allora andare. Va bottone, dai, ti saluto, io sono arrivato. Tante cose belle, dai, mi ha fatto compagnia, almeno. Ci sentiamo la prossima. Ok, già, alla prossima. Ci risentiamo, ciao. Pure. E chi è? Chi è che sta chiamando? E chi è con la portante? Tore, come va? Ma ti vogliamo, da un piede dall'altro. Non ho capito. Come vuoi che vada, con un piede e con l'altro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi ascolti, sì. Se non attacco io, non ti ascolta nessuno. Vabbè, ho avuto... mi è mancata l'alimentazione, più che altro. Stai arrivando benissimo, stai arrivando. Meno male, è una ora. Così è. Già lo vedo, ci mancherebbe. Ehi. Tu come va? Tutto a posto, sì. Pensavassi. Meglio così. E va bene. E se no, ti raggiungiamo, era per Maffetti. Ah, quello sì, aspetta un secondo, mi metto i piccetti che ho. Un po' di pista, aspetta un secondo. Ecco, adesso va bene. Adesso, vedo tutto meglio. Oh, più chiaro, è più chiaro, vedi? Se ne dovrei 10, ma non ci vuole 5. Non so, c'ho... Quanto posso dire? Quando mi vista a volte mi capita che vedo normale, a volte mi capita che vedo cosa cazzo ne so io? Evidentemente, non so se sia diabete, cosa cazzo ne so? Non mi ha detto niente, ha cazzo il medico. Hanno dato questi video, ci sono, mi pare un imbriaglio a me. Dove? Sì, ma dopo una... due giorni, non di più o meno, la verità. Dopo due giorni torno di nuovo normale. Così è. Andare. Così è, infatti. Figurati. Ciucucciu. È fuggito, si c'è. E chi? Ciucucciucu. Ah, Ciucucciu. C'è un giorno che non mi capita, quello lì faceva ciucucciu. Deve darsi il morso, deve darsi. Probabile, interessa. Deve essere volato in cielo. In cielo fa, sentato, in cielo fa. Faccia l'anima sua. Amen, ubi turbi. La mescia di Gemmo di Zendi. Gloria. Forse l'ha venduto. Non lo so. Sì, vabbè. Peggio maedo. Vabbè, quello sì. Che andiamo bene, andiamo. Canta, andiamo bene, andiamo qua. Cosa devi dare? Certo, non ho più sentito a Franco, non ho più sentito. Boh. Evidentemente sta lavorando, mi interessa. Lavorando. Lavorando. Sì, dove sei venuta? Franco California. Sì, Franco California. Chi sei a Lugue? Non ho più visto, non ho sentito la verità. Io pensavo che stava lavorando fuori, magari. Mi interessa. Non lo so. Non saccio. Vabbè, quello sì. Sì, è vero. Infatti è così. Ehi, vabbè. Se vuole entrare, già siamo qua. Sì, è vero, se vuole entrare. Non c'è problema, se poi non vedremo. Quindi, no, a un certo punto, quando vuole entrare, non c'è problema. Sì, già è così, purtroppo è così. Purtroppo. Ciucucciu. Buongiorno. Dove? Ci sei, sì. Un attimino, Antonelli, che c'ho gente. No, oh, vabbè, ok, no, non c'è problema. Gianni, beh, ci sei. Antonelli, guarda che sto chiudendo. Ci risentiamo alle prossime, ok, ciao. Non ho capito tutto, cosa mi hai detto? Chi è? Buonasera. Bene, bene, tu come va? Hai visto mi senti bene adesso? In che zona sei? Io umana, carbonara. mattina sei dietro casa mia, sì, a un certo punto. Beh, sono attaccato proprio, mi sono accorto. Ah, quello sì, ha voglia. Non ho capito, dimmi, cosa hai detto? Ok, e quindi ti ha salutato, ti ha fatto ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Hai visto? Vabbè, ogni tanto bisogna fare così. Piccina capolazzi, stai lavorando. Cazzo! No, non me lo dire, no. Ah, allora ci vediamo lì spesso, non ti preoccupare. E a voglia che ricordo, che ricordo bene, ci mancherebbe. C'è c'è ancora, ma comunque dovrebbe esserci una persona extracomunitaria lì che lavora. Quando vuoi io sono lì tanto. Solo il sabato e basta. No, venerdì e sabato, mi trovo che lì. Poi dipende dai giorni. Ah, vabbè, allora. Quindi noi ci vediamo lì. Poi ci vediamo tutti i giorni in pratica. Io vado lì a tutta tutte le mattine e tutte le sere, quindi figurate tu. Stai facendo le consegne delle pizze? Ho capito adesso. Beh, allora mi viene a te. Che ti posso dire? Meglio di quello che pensavo io. Dai, dai, che si pizzeri, dai, ci siamo dopo, dai. D'accordo, sì. Avanti, buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera, chi è? Sa salire questa parte. Sono Danilo da Porto Torres. Danilo da Porto Torres, giusto? Sì, io da Porto Torres. Ti arrivi bene comunque, la verità va bene. Ok, dai, mi fa piacere, mi fa piacere. Se non sbaglio mi hai detto che lavoravi ai granai, giusto? Non ho capito. Ti stavo dicendo, se non sbaglio, mi avevi detto che lavoravi ai granai, giusto? No, sono Sassari, la verità. Quindi granai no, niente da fare. Ah, tu mi sto confondendo con qualche un altro che mi aveva detto che lavorava qua a Porto Torres ai granai. No, io no, la verità. Comunque, le granai io... La verità, non lavoro per niente, per quel motivo. Comunque stasera cosa c'è? Poco movimento su questo canale? Sì, vabbè, qualcuno già c'è, la verità. Quindi sta consegnando pizza e quindi a un certo punto va bene, diceva quello. In macchina. Ascolta, è Luca? Luca, mi siete sentiti? Aspetta un secondo. No, non t'ho copiato, mi sei mancato un attimo. Mi ricevi che ti ho perso? Sono entrato. Cosa stavo dicendo? Ti stavo dicendo, è Luca, è da un po' che non si fa sentire. Quello sì, la verità sì, quello sì. No, ti sto copiando a tratti, ti sto copiando a tratti. A me con il copio bene, sì. Adesso sì, adesso sto copiando bene. Ok, Sassari... Non si capisce bene, però bene. Sì, mi stai arrivando bello chiaro adesso. S9. Ok, va bene. Dammi 5 minuti che mi stanno chiamando e poi rientro subito, va? Ok. Ehi, tranquillo, dai, non ti preoccupare, ci sentiamo con calma alla prossima. Ah, al prossimo niente, 5 minuti, che sto arrivando, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Sì, ok, perché io sono in barra mobile, sto per arrivare a casa, per quello ti ho detto alla prossima. D'accordo, ok, ha chiamato mio nipote che sta arrivando a casa e poi arrivo subito, non ti preoccupare. Senti, non so bugiando, aspetta, vada. Ciao Sergio, ti ricevo forte e chiaro. Buono, buono, ti ricevo forte e chiaro, anch'io 5-9. Anche a te già sì, più o meno. Oh, ma è una volta che in mezzo a questi microfoni si trovano anche soldi. Oh, ma vado se iniziamo a più vigilare, Sergio. Guarda, io sono praticamente centro città e qua sta iniziando a più vigilare. Viale delle Vigne, Viale delle Vigne la parte bassa. Sì, sì, mi sa di sì. Infatti mi sa che adesso come arrivo smonto l'antenna anche. Oh, ma c'è la macchina in moto adesso? Perché sento un disturbo. Mi sei mancato. Sì, mi ricevi ancora? Ma ti sento male, ti sento davvero male, disturbato. Sì, praticamente tu quando stai modulando c'hai un rumore di sottofondo, una sorta di ticchettio. Antonello! Ci sono. E allora, buonasera, come stai? Tutto a posto? Tutto bene. Da dove stai modulando? Da Porto Torres, e tu? Sassari. Dammi un controllo di segnale, fammi la cortesia. Guarda, sei arrivata a 9. Ok, tu sei in Santiago di 7:30 o quasi 8. Come ti chiami, scusa, il nominativo? Ciao, guarda, sono Danilo. Tu chi sei? Marino da Sassari, Marino. Dai, abbiamo quasi lo stesso nome, è possibile sbagliarci. Esatto, Danilo, Marino. Stessa cosa, ce l'amico mio, Pompugno, vediamo se c'è Antonello. Antonello? Ciao Marino, buonasera. Passami dico tu così, lo controllo un pochettino. Ho detto, ci avesse c'è Antonello, c'è l'amico del produttore, c'è Danilo. Avanti Danilo per Antonello. Sì, lo sento, anche lui lo diceva forte e chiaro. 9-5 qua, a casa, radio 5 a bomba. E io come ti sto arrivando Antonello, bene va, sì. Troppo? Guarda in questo passaggio, quando ti sto arrivando, 1, 2, 3 prova. 9-15. Già va bene. Ascolta Antonio, la signora come sta? Così più che altro. Quindi, tutto servito di nulla. Così sta. Si sta riprendendo piano, dai. Un po' con calma. Ok. Avanti Danilo, cambio. Ragazzi, ma lì a Sassari che tempo fa? Qua a Porto Torres sta iniziando a più vigilare. Guarda, qui per il momento è tranquillo. Per il momento è tranquillo. Vediamo cosa mi dice l'amico mio Antonello, che lui è la zona alta. Antonello, com'è il tempo? Sta piovendo o no? No, tranquillo. Non piove, non ti preoccupare. Danilo, ok, hai sentito? Comunque diciamo che è tempo suo, è tempo suo, poi marzo, anche se oggi è 21, la primavera, marzo è pazzo. Adesso c'è sole e dopo le scenerali, avanti Danilo. Sì, ma ci vuole, l'importante è che non faccia danno, però poi che non mi parino di siccità, queste tante, Speriamo bene. Comunque mi sta arrivando un Santiago di 8, una radio di 5, ottima radio, bellissima. Avanti Antonio. Sì, ascolta, devo fare un po' di pausa, quindi a un certo punto, c'ho il TMR, accendi quello sul canale 7 e così ti chiamo di là. Ah, ho capito, dai, sei via. Andiamo noi, andiamo, il zio Antonello, il zio Adore. Andiamo noi, andiamo. Andiamo noi, andiamo. Capaloce, capaloce. Un po' come il pomponio. Appunto, aspettando. Via. Ebbè Marino. Ebbè Luca, tu da posto, sì. Insomma, chi sono che a posto? Chi sono a posto, prima a posto. Vabbè, piano piano, dai, piano piano. So che stai lavorando, meglio così, piano piano. Ti si segue a te, stacco, che c'ho lo scanner, c'è dritto. Adesso lo stacchiamo. Ti ho visto stamattina veloce veloce, no? C'è una 205 c'è, o mi sbaglio? No, una C3. Allora non eri tu, mi sono sbagliato, comunque va bene, dai. Interessante che stai lavorando, piano piano sti sistemi, dai. Tua madre, sempre la solita? Mamma all'ospedale, è stata male stamattina. Purtroppo io, guarda, io ho mia suocera a casa, che è la sua, diciamo, sta in Pisa e c'è mia moglie, stanno scendendo. Purtroppo è così, come c'è la patologia, non vengo in là. Quella lì è un, diciamo, è un po' grandetta, diciamo, là. C'ha 84 anni, però uno può avere anche 100 anni, non c'è sta niente. La madre. Sando fuori di testa. Gentile, vengono i medici, ogni tanto non vuole prendere questo, non vuole prendere quell'altro. È un casino. Va bene, dai, andiamo avanti, piano piano, avanti anche a me. Sono già 6 mesi, Mario, qua, capito? Sicuramente non è che... Sono già 6 mesi, va bene. Senta Danilo, ma però lo sento basso, avanti Danilo. Danilo, ascolti a Luca? Oh, ma non intendo più. Eccomi Luca, ciao, buona serata. Basso, lo sento in radio. Segnale 7, ma la radio è 1-2, ma è basso. Oh, come sempre ormai. Dovresti magari un microfono amplificato, capito? Un MB4, ti fa la modifica, ti facciamo vedere come si fa e vedrai che poi vai meglio. A modo di radio l'aumenti un po'. Intanto guarda, adesso mi organizzo per farmi una bella barra fissa, così almeno un po' più comodo invece di essere così immobile. Vedi, vai, che sta mandando un messaggio a mia sorella. Tranquillo Luca, tranquillo. A me mi arriva Santiago di 8, Santiago 8, la radio 5, diciamo, forse perché siamo un po' vicini, diciamo, io sono in mezzo fra Porrottoso e Sassari. Avanti Antonè, Pompugno è impegnato, avanti Danilo. Ragazzi, io adesso scappo, è stato un piacere, poi già... Ci sentiamo domani sera con più calma, che sono più libero. Buona serata ragazzi. Benissimo, ciao Danilo, comunque io sono Marino, Marino da Sassari. Benissimo, ciao Danilo, ben sentito, a domani se coincide, ciao. A domani, ciao Marino, ciao Antonello, ciao Luca, buona serata. Benissimo, ciao a domani, ciao. Ciao! Ciao a tutti, buonanotte! Alto lei, un pugno! Avanti, chi sei? Ti ascolto, ma dimmi chi sei, scusa! Già ti sento, chi sei? Bacchisio! E guarda, ti ascolto 9 più 5, io sono qui a Sassari, avanti. Sì, sì, sì, il segnale è sempre quello, eh. Il segnale è sempre 9 più 5, e la radio è 5. Ok, vediamo se c'è l'amico Antonello. Antonello? Antonello, risponde, avanti, avanti l'amico, è vagabobile. No, sicuramente si è spostato, eh. Si è spostato. Dove stai venendo? Verso Sassari? Ok, adesso da 9 più 5 sei sceso Santiago 8. Santiago 8, comunque ti ascolto lo stesso, vai. Vabbè, comunque già va bene, dai, già va bene. Come mi ascolti a me? Ok, dai, già va bene, già va bene, ok. Io con questo passaggio ne approfitto, dai, che mi stanno chiamando per la cena. Ok, ciao, ben sentito, comunque io sono Marino a Sassari. A domani se coincide, saluto in tutti gli ascoltori, anche per me QRT. Ciao bello, a domani. Ciao Antonio, ci siamo domani, là. Saluto la signora, dai, ciao Antonio, ciao ciao. Ciao ciao.